paura del cor turbar tentate, in van sperate di traviar, dal dolce suo sentiere di gradito piacere, l'anima mia con frivole ragioni, d'alte speculazioni. Non conosco altro nome, altro diletto, che la vita presente. Ero ordin cautamente, idea troppo fallace e fortunata, e l'immortalità t'ha voi sognata. Thank you. fede carriera, nel circolar di tanti lustri e tanti, al mio voler soggetta, ognor sostenni. Sarò del tuo desio regolator esatto, d'ogni pensier, d'ogni piacer, d'ogni atto sosterrò, con cose sui dubbi e fenti, e renderò perfetti i tuoi contenti. Vivi e godi, e non temere, e non temere, e non temere le vicende della questa paglia instupidisce i sensi. Qual incognita forza di soprannatural, vago splendore, il cuore in ombra, in un gradito orrore. Son io, secolo ingrato, amor profano, son io quello chiaro lume della fede immortale, che te le celeste nume, l'infallibile essenza, l'increata sapienza, la giustizia, l'amore e la presenza. Alla perfidia tua cieca ignorante or presento davante. Thank you. Potenza antidequato. Thank you. soffristi la baldanza, sforza dell'amorosa tua possanza, rendi la mia salute. E sia la tua virtute, la tua sola bontà del merito mio. Orché pentito io sono aver offeso il sommo bene mio. Perfetto. clemente, clemente, e l'uomo ingrato, l'uomo ingrato, allor si pente, il suo peccato, il suo peccato, per tua bontà, c'assai difetto, spirito di pietà, spirito di pietà. contento porta un peccatore il pentimento. Ecco mio Dio, mi servi tu. Ai falsi onori, ai fasti, alle delizie del mondo ingannatore, e grandezze celesti ambisce il cuore. La mia resipiscenza mercè del tuo splendor fera dorata, ti promette costante penitenza finché sarai mai in ciel giustificata. Sorge la speranza di fare